trovare in Cappa del Roggero, chi è che c'è, c'è? Però mi tutta quanti società fisso, buongiorno! Ciao, ciao, Gianluca, non ho ascoltato per la varia di tempo, va bene, è entrato Graziano, allora Graziano in compagnia, è entrato Gianluca, ma mi sa che sta chiudendo, un genio Massimiliano, avanti per chi vuole. Cappa del Roggero, oggi va per Agnoli, mi, oggi niente pesce perché non ci sono scelte in campagna, allora sto facendo l'agnello con la testina, il cuore con battato, andrà bene, riprendi Massimiliano. E allora ti demmo la mano, ha già inteso che non piago, perché io non prendo l'agnello con le testine, le patate le posso mangiare a gallo la gara. Ciao grazie, buongiorno, aspetta sto arrivando, apri la porta. Papa di Roggero, e io chiedo i sardi con il sugo l'ho preparato io, perché io quando lo faccio lo faccio, ma appento la grande, lo metto in frigo, mano a mano che lo adopero me lo prendo. Il sugo è con la salsiccia a dadini. La salsiccia? E non andare, ciccione e agnoni. Andare, fate buon rimma. Ho sentito, becca era. Cappa di Roggero, me l'ha portata un mio amico da campagna sua. Da Sobore, bruisci, non è buscia. Cazzo, sempre bisogna mangiare a noi, che questo mi porta anche le uova e la ricotta mussa e la ricotta fresca. Così buono. E non che ti usi quelli grandi, no? Quelli sardi? No, rimarrò letto, gli dimani non mi piace in acciaio, gli diminori mi piace in di più, rimarrò letto. Adesso buono, pure si mangi. Le mangono un po' più durette, grazie, ma già sono buone lo stesso. Là. Avanti, oggi. No, ma non ci stai ancora, mi siete di infami. Io ho fatto appena cioccolazione e mi tocca di nuovo di mangiare, lui. Ehi, vabbè, dopo scendere in campagna a fare le sardine e a me non me la metto in stato pezzo, arrosto. Ma se non è bella giornata non mi piace, la giubbo sul boffetto. Vito, grazie. Ieri mattina, tanto di oggi avevo 30 gradi, grazie, la sera, tanto mi ha di luglio, mi ha trovato il salotto, mi leva. E tutta la notte, bivenne, mi sono cominciato tra 4 lucchi, sempre di continuo, bivenne, la giustizia, sì, e se ne pongo un po' fetta, che me la viene frigorifera, tu male non per farlo, a valla, si tratta di chi da farlo, una ripeta a farlo. Positivo, io dovevo andare a Lumacchia stamattina, ho detto, diciamo che vado a Lumacchia, invece, tanto che la sera c'è bisogno di trampare e ricare, grazie, dopo tutto quanto ad un'ora. Fa male la schiena, il braccio, e quindi la gente va a far cura la gioca. Domani vado, devo andare. Ah, io non ci sono più andato, l'ultima volta che sono andato mi ha giuriato. Mezzo dalla parte di sotto, dalla parte della strada dei due mari, dalla parte di Bussudorra. Vai, non la giorno nuda, quasi nuda, non ci vado più. Posso prima, mi la compare giocando con me, da questa signora di Via Pascoli, o se no lunedì a Piazza dei Segni, c'è questo tipo del Campidano. Ma che giusto gioca con cui Mosetta, tutta di questa roba musica, roba salsa, finocchietti, asparagi, e non è neanche caro. Vado a quello e me lo compro quello, però c'è solo il lunedì a Piazza dei Segni. Grazie, lo sai perché? Se tu non sei punto devi andare a trovarle. Non sai dove c'è il riciclo della plastica lì andando verso Trucco Reale giù dove c'è quell'impianto di per fare il calcestruzzo la Rugendi già lo sai anche lì sono andato anche in quella zona lì sono andato pure al periodo di Radio Vita non andati a sempre però già ho tutto ma se pare di questa fa fammi un po' di giochetti città, chilometri e chilometri, la KBG, sono andato da Piazza Lessini e me l'ha rimbigliato l'anno scorso, ma la voce, ce lo metti in benzina e in culo e non ti fai niente, no no. Vabbè, no, io abito vicino, quindi un attimo, vado lì e diciamo che l'ha mangiata quei 2, 3, 4 kg, a volte 2 di più, la c'ha per esempio. Ma io ho chiesto un peso, all'esese un quarto sono bigivi e all'altro sono a casa. E ti dico che qualcosa l'ho sempre trovato, là, ma l'ho sempre qua a trovare. Ma io oggi, tanta, perché tu c'è bicicletta e vendeva? E mi dedicate a tirare su giù là. Oh, già che freddo, ma non ti conviene, agita dopo domani, perché domani ha messo questo tempo. Se sale i vivi, fai ginnastica in casa, come ti fai le migliore, anche io qui ho la cicletta, solo che me la guardo e dico, beh, domani me ne faccio un po', domani mi la dovrò ballare, domani me ne faccio un po'. Non si sta regalando però il suo domani. No, no, però, tanto sto pensando, chi mi ha preoccupato, io, dal mattino alla sera, sempre in nato, ma mi fa piacere l'anno, è un bel culo. Cazzo, vai a rubare, a me mi piace la pianta, in opera del ratto, nella vetrata, c'ho la veranda chiusa, no? E mi piace la pianta in opera, mi piace la roba, sta di brutto, la buccia del giocattolo di Menibuzzi. Divorzi appoggiate! Se la pigliate da parte a campare, come la buttate di pedale, così non andate di giù. Ma se avete crackata nel termociffone tra il pedale e il perno che c'era avanti, la di proprio depositata attaccata al muro. E su, dopo. E vabbè, la gara avevo. Poi di caso ci fa vedere la macchina, ti apro le vie lì, la pedalata l'ha già mangiata. La faccio poco giro, la cosa per me l'ha ascolto ed ero pedalente, però era tutto il primo periodo, ma io sono fatto così. Tutto ha ricominciato da voi, mi basta la gara di giusto, ma... vabbè, vabbè. Casino, casino. Quindi ti lasciando a pedalare tu oggi. Poi ti vai con la bicicletta. Ma cos'è la ciclista, la bici? Ah no, mi la tiene in garage, non va nuova, me la giubilata e la matessa lì, sai, domani mi sa che mi posso in giro. Ed è di quelle buone, mi c'è anche il cambio sciamano per Cristo. O Shimano, boh, non va nuova, pura zona, di dopo giurati me la ha mai data. La giusta patta, fanno arruinarsi i gruppi uguali. E tutto chi gli fa la piglia la macchina mi ha taglito. Una volta e mai, però è di chi si rimacca, il capo, non lo so la marca, non me la ricordo. È nuova nuova, è mai usata. Anche io ce l'ho una bella mountain bike, me l'ha giurata un americano che andava in Italia alla Maddalena. Poi me l'ha giurata lui perché me l'ha giurata il suo americano. La mia è una bottecchia, tutta in alluminio, il telaio, è leggera leggera, la prendi col mignolo così la sollevi in alto. C'ha poi il cambio, non mi ricordo cosa sia, a 16 rapporti o a 22 mi pare che sia, c'ha la leva grande e poi per scalare c'è la piccolina, sempre nella stessa manopola, hai capito come oggi? Poi mai non aggiungerebbe da là, adesso quando da corri. Capito, mi piace di più, a me pedalare non mi piace, stare in mezzo alla strada con le macchine, cose, ui, no, no, no, non mi piace la bici, preferisco più correre a piedi, sul marciapiede. Che bella la bicicletta, va, dammi di più, già, una volta che si è preso il giro, già va bene, meglio di curare a piedi e più in fretta in bicicletta, o no? Grazie a Gabbiati, sì, io preferisco più la corsa a piedi. A chi piace la bici sarà meglio la bici. Io ce l'ho che ogni tanto me la siedo e faccio un giretto, ma qui giù cosa di un chilometro, cosa, la prima mi devo attaccare, la giù magari la bici può andare a fare una buccia mondezza, e l'ho preso, se no già rimane ghibili. C'era anche in campagna una, ma quella che mi era nella cattura, mi era messa arrugginita, ma già funziona. Una mountain bike lo stesso. E già funziona però, ogni volta che io me lo posso in giro in campagna, ma stesso. Sai che non ne posso fare un po' di strada, cazzo. C'ho due ore del disco, già appena che non posso due chilometri ma giù di fronte a puzza, cioè vuoi o non vuoi, mi fermo, da solo ti devi fermare, a chi non ha di né adorato e né andarito, a chi mi si piazza un punciotto in mezzo alla china, in bacio, chi ti gribba? Cosa devi fare, grazie a te? Devi allungare il manubrio, le salde due tra file e ti allunga il manubrio, così guidi dritto, senza girarti. Mi che prima di quella ne avevo una di quelle antiche, però nuova, me l'aveva regalata un rappresentante, loro le davano in omaggio se facevo un sotto d'acquisto, era rappresentante di latticini, ricotte, mozzarella, questa roba qua, burro, latte, e me l'ha regalata una perché il magazzino aveva una quarantina, lui doveva andare in omaggio ai clienti se raggiungevano un certo tutto di acquisto il cliente, però una me l'ha regalata a me, era bella, mi dico quelle cose antiche, con i freni di ferro, il manubrio a farfalla, presente ce l'hai, quelle nere dei fascisti, una di quelle. Grazie a Dio, ce l'ho presente, io questa poco tempo fa avevo la bicicletta di nonno, di che si vece vece, che c'hanno le stecche di ferro con i freni, mi hai capito? Ehi, questa c'aveva le secche di ferro nei freni, non aveva file guana, c'erano le secchette di ferro, però era bella, con la lampadina cromata davanti, il pomelone, la luce dietro, la dinamo, e se guardi non la trattavo più, chissà, si è ribuccata a Portobello, ma che tratta di la pigliata un uomo anziano? Adesso dice, una vita stavo cercando una bicicletta, lui dice, mi, cioè, se lui sappiamo, chiamava pure, gli dice, ragazzi, mirati, mirati, volenni, a chiamare madre, lui citti, dico. Perché quando entri lì le svendi le cose, capito? Infatti le gira gira, conviene più tenerla, perché tanto non te le pagano come il valore, capito? Quindi alla fine, secondo cos'è conviene che uno se la tenga? Quanto va bene, dite 30, 50 le busciate, a due alla fine ho sicurato di valere davvero. Me ne sono pentito, sono stato con la premessa sull'occasione, l'avrei venduta più bene. A chi c'ha me ma tutti di madre lui citti, a Marco, e oramai, ma no, ma adesso quando c'ho roba così non ce ne porto più. Magari la zinnanda, me lo metto nell'occasione, quando mi capita me lo vendo nell'occasione, la vendo più bene. Come da fare così? Tanto va pure. La metti nell'occasione e nel frattempo te la tira a casa e già non va a bari. Già ci va, già cuffareggia ne brucia l'occasione. Perché il vespone? Avevo messo nell'occasione, cazzo di giusto da Calangiano giù a vedersela e se l'ha comprata, e domani giù con Lucarelli l'ha messa e se l'ha pigliata. Però gli ho dato tutto quello che c'avevo, c'avevo tre carti, quattro luci di scorta, il palabreso, tanto cosa mi ne basia. E mi l'ha già regalata di testa al gu. E mi l'ha pagata a me. E si c'era buscata. Positivo, io vi lascio un secondo, grazie, se in caso riprendo dopo me l'ho chiamato. Vai Eugenio, riprendi tu, io devo allontanarmi un attimo, riprendo dopo. Dai, intanto io sto uscendo. Ciao ragazzi, ci sentiamo più tardi, che vado a farmi i miei soliti chilometri e poi rientro a casa. Ma ci sentiamo dopo pranzo, ciao a tutti, ciao. Ciao Eugenio, buona bella latta, stasera. Grazie, ci sentiamo, ho fatto piacere di sentirti, ho portato. Ciao, ciao a tutti. Appa, buona bella latta, ciao. Grazie, ciao, ciao. Ciao.